Oggi presenteremo per la prima volta un lavoro in video che è stato realizzato da Danilo, Nicola, Tiziana, Claudio, che si propone di sostenere il progetto di formazione della Casa Archivio di Cesare Bermani. Quindi sono state fatte delle riprese degli ambienti e Cesare e Antonella descrivono, raccontano cosa si è addensato in quegli spazi a testimonianza di un lavoro di ricerca che sapete va molto indietro nel tempo. Ecco, questo video molto, molto semplice si propone di far capire di che cosa si tratta e circolando il più possibile cercare di sostenere quella che è anche una raccolta di fondi, perché un progetto del genere ha ovviamente dei costi, e come si spiega pure nel video, solo una parte di questi costi sono coperti, un'altra parte invece si baserà sul supporto, sul sostegno degli amici, dei compagni e degli interessati. Ecco, quindi oggi vedremo per quello che si riesce inizialmente questo video, poi lo rideremo sul finire dell'iniziativa quando farà un po' più buio. E contestualmente ci sarà la presentazione dell'ultimo numero di Officina Primo Maggio e quindi un dialogato tra gli animatori di questa, che spiegheranno loro, non può essere definita una nuova serie della rivista, ma è comunque una cosa in continuazione con l'esperienza di Primo Maggio, Cesare e Antonella in collegamento, perché non è riuscita a raggiungerci, però siamo d'accordo di parlare con lei in remoto, come si dice. Per cui direi se i registi, soprattutto poi Nicola, escludo che spiaccicherà parola, però dovete sapere che è stato l'elemento forse centrale di questa realizzazione, perché con una pazienza davvero certosina ha montato, ripulito, rifinito, accorciato, modificato quelli che erano materiali di lavoro girati così in prima battuta nell'arco di una giornata. E quindi quello che alla fine è uscito è in larga parte merito suo, come è merito suo la riuscita di tutte le iniziative che vengono fatte qui per quella parte grande o piccola di tecnica che sempre queste iniziative comportano. Ecco, chi ha lavorato a questa cosa, se vuole, può dire qualcosa, poi verrà sollecitato adeguatamente in caso di resistenza. Altrimenti passiamo subito a vedere il video e poi a ragionare un po' su che cosa si può fare per continuare un percorso di ricerca, di presenza alla storia che è sempre stato denso di politica, che ha sempre cercato una risonanza con le contraddizioni di un tempo che oramai può sembrare lontano, ma che allora era il tempo di giovani ricercatori, come sono giovani i ricercatori che hanno ripreso in mano Officina Primo Maggio, e in questa volontà di seguire il corso del tempo facendogli contropelo, sta un po' il senso di questo sforzo comune, al di là delle 100 maniere in cui si è declinato. Ecco, per cui No, io volevo solo aggiungere questo, che questo filmato è un, diciamo, il primo passo per far conoscere questo archivio che è immenso. Io stesso, quando siamo andati appunto a filmarlo, pensavo che fosse solo quei locali che riuscivo a vedere. A un certo punto si è aperta una tenna ed è apparsa l'ira di Dio di volumi, di giornali, di materiale che non avevo mai visto nella casa di Cesare. Ed è veramente un patrimonio da conoscere e da non disperdere. E se è possibile, appunto, il lavoro di catalogazione è già cominciato e c'è la necessità appunto di andare avanti. Stiamo già pensando ad altri momenti. Proprio oggi parlavamo di una mostra di disegni che ha Cesare e altre cose, per far conoscere piano piano questo archivio, anche dando così degli input di volta in volta, in modo che anche per capire che, per esempio, per noi, almeno per me, era Cesare il canto popolare, quello che ha scritto il libro su Bella Ciao, sull'Internazionale, sui canti contro la guerra. Però la sua ricerca è vastissima, si è occupato di tutto, di leggende metropolitane, di interviste ai partigiani, di queste cose. Quindi è veramente la necessità di... Questo è il primo momento, diciamo, un riassunto di tutto quello che c'è. L'idea, anche con Antonella, che appunto non è qui perché è rimasta, diciamo, bloccata a Orta per altri motivi, però si collegherà con noi e spiegherà appunto a che punto è questo lavoro. Noi cerchiamo di collaborare, dico noi perché, diciamo, tiro dentro la Calusca, l'archivio Primo Morone, noi come il Cantastoria Online, come rivista il Cantastoria, vogliamo dare una mano, insomma, perché questa cosa venga diffusa. Il filmato, dopo questa prima, andrà sui cosiddetti social, anzi sull'archivio e a Venezia. A Venezia, sì. Sull'archivio internet. Sì, sarà caricato su Internet Archive, e poi soprattutto si tratterà di farlo girare in iniziative piccole e grandi. La base di partenza è far sapere della cosa c'è. E cercare di tirare insieme un po' di forza, un po' di sinergia su questa cosa. Adesso vediamo il video per quello che riusciamo a vedere, poi appunto verrà replicato alla fine del pomeriggio. La chiamavano Capinera, era ancora una bambina, tanto fragile e carina, un tesoro di bontà. Lei viveva solo al mondo col papà, al lavoratore, che rendeva sei giocondo per suo canto e per suo amore. Nell'uscir dell'officina, alla sera il suo papà incontrava la piccina che lo stava ad aspettare. La chiamavano Capinera, era ancora una bambina. Questa canzone è la trasformazione sociale operata da Raffaele Uffidani, più noto come Spartaco Piceno, che è il maggior chansonnier comunista italiano, di Capinera, una nota canzone che nel secondo dopoguerra, nel primo dopoguerra, lui trasformò in Capinera del Carso, facendone una canzone di tipo melodrammatico ma molto efficace, nella sua resa, insomma. La cantante, che è una cantante straordinaria, abituata a cantare da sola, ex Mondaliso, ma che comunque lavorava ormai da tempo in Novara città, era una mia compagna di partito che si chiamava Felice Baldini, che mi si rivelò completamente diversa quando la conobbi al di fuori della sezione di partito. Cioè divenne straordinariamente ricca di racconti e di canzoni, no? e direi che secondo me è una delle delle cantanti popolari più sottovalutate da parte di chi ha studiato queste cose, perché tutti parlano di altre cantanti, di Teresa Viarengo, e invece Fenice secondo me era veramente una cantante straordinaria. Eseguiva questa, cantava Nero Nero, bravissima in tutto il repertorio delle canzoni di Pietro Goli. È interessante che i comunisti allora cantassero indifferentemente le canzoni anarchiche con qualche rimaneggiamento e quelle socialiste senza nessuna distinzione. Ora così sulla terra, così è la guerra. Per quel che riguarda il materiale del mio archivio, quello che ho accumulato riguarda le mie ricerche. Alcuni in particolare sono fondi abbastanza importanti. Ci sono, per esempio, un grosso fondo sulla storia della mia famiglia, da mia nonna ad arrivare a mio padre, a mia madre e alle Brigate Matteotti con cui mia madre era in contatto. Sulle Brigate Matteotti le ho studiate particolarmente, entrando spesso in polemica con i comunisti a Milano, perché soprattutto mi sono occupato delle Brigate Bruzzi e Malatesta, cioè socialiste anarchiche che erano state molto importanti nella storia di Milano, ma che i comunisti non volevano ammettere. Importante è quello di mio padre, che appunto è stato tra l'altro parlamentare europeo, uno dei primi parlamentari europei, ed è l'autore della legge di giusta causa dei licenziamenti, più nota come articolo 18. E di lui ho molta roba, ma soprattutto, essendo lui considerato il maggior poeta dialettale della zona, ho raccolto le sue poesie e poi i suoi quadri, perché era anche un pittore dilettante, ma abbastanza piacevole. Io ho preso l'abitudine da mio padre di fare dei libri con articoli dei giornali, e mio padre ne ha fatti tantissimi, e io appunto mi procuravo dei fogli bianchi per poter appiccicare questi articoli, e questo, a cui sono abbastanza affezionato, è perché ho preso parte agli avvenimenti, è la contestazione in una città di provincia, Novara, cronaca degli anni 1969-70, perché si parla dell'occupazione dell'ospedale psichiatrico e dell'occupazione del ricovero per ragazzi poveri Domignoni, a cui presi parte. Poi c'è, per esempio, tutti i verbali del Circolo Rosa Luxemburg di Novara, che ha avuto una certa importanza nel 69, avendo occupato il manicomio e il Domignone, che era un ricovero per ragazzi poveri. C'è anche dei materiali riguardanti la storia del centro medico pedagogico di Novara, riguardanti la dottoressa Marcella Balconi, che è stata un'importante partigiana e poi forse la maggiore neuropsichiatra infantile con la quale ho lavorato alcuni anni, centro medico pedagogico. Biografie riguardanti la Federbraccianti del novarese e vercellese, uno studio sul circolo operaio agricolo della Bicocca Novara e poi, per esempio, sul movimento di resistenza partigiana dopo la guerra, quelli che erano tornati in montagna, sulla vita del PC tantissimo, e poi, per esempio, anche delle cose sui contrabbandieri e su personaggi tipo Gianni Borgia, Giovanni Pirelli, Gianni Rodari, Diego Carpitella. Poi c'è tanto materiale anche riguardante Roberto Leide, che abitava qui a fianco a me, che ho registrato decine di volte ricostruendo la sua biografia, Marcello Pantani di Pisa su Lotta Continua e poi a momenti particolari tipo il Forum Sociale Europeo del 2002 a Firenze, dove ho registrato tantissimo, trovandomi là sul nuovo canzoniere italiano ovviamente. Poi c'è un grosso fondo di canti sociali e popolari raccolti quando lavoravo assieme a Roberto Leidi al libro Canti Sociali Italiani. Poi militanti politici nel Novarese e non solo, quindi ho racconti di Leda Raffanelli, di Lelio Basso, di Cino Moscatelle, di tantissimi militanti politici di spicco o di meno picco, ma ugualmente importanti. Ci sono poi 120 CD, diciamo per quasi 200 ore di registrazione con partigiani sulle loro storie di vita o su particolari momenti della storia che ho studiato in Valsesia. Poi ho un materiale su Aldo Pomati, che fu un infiltrato nelle formazioni partigiane del Novarese, di cui ho anche un curioso manoscritto che aveva scritto prima di essere fucilato, un grande materiale sui canti religiosi abruzzesi e sulla stregoneria popolare in Abruzzo, moltissime cose registrate sul lungo 68, la Volante Rossa a Milano, di cui mi sono occupato per parecchio tempo, ho tantissime registrazioni di partigiani raccolti anche a lungo, registrati anche a lungo, magari anche 1 o 2 ore, a 20 anni dalla Resistenza li ho registrati, quando la loro memoria non era ancora tarata, come capita spesso, e ho raccolto più di 100 partigiani sicuramente. C'è il fondo di Primo Maggio, per esempio. Tutto quello che riguarda la rivista Primo Maggio si trova qui da me, e così tante altre cose. Per quel che riguarda i giornali del 68 ci sono, non dico tutti, ma quasi tutti. I libri che ho raccolto, che riguardano prevalentemente il movimento operaio, la resistenza e poi libri di letteratura e anche di letteratura francese, complessivamente sono quasi 60.000, mi pongono dei grossi problemi, anche perché in casa comincio ad avere poco spazio, anzi non ne ho quasi più. Qui per esempio in questo scaffale ci sono libri che riguardano le canzoni popolari, i canti sociali e la pedagogia. Qui ci sono libri che riguardano soprattutto l'Abruzzo, dove appunto io ho fatto molta ricerca. Ma qui ci sono libri di psicoanalisi riguardanti i canti sociali e il femminismo. Qui invece ci sono molti libri sulla non violenza e sulla rivoluzione francese. Qui ci sono libri che riguardano soprattutto il partito, il comunismo. E qui c'è il mio preferito, il mio bolscevico preferito, che è Bogdanov. Quindi so anche cose sul Manifesto, sui festival dell'Obdup, sulla Kaluska, su Primo Moroni, sulla vera storia di Bella Ciao, a cui ho dedicato anche dei libri. Direi che più o meno sono queste le cose che ho registrato oralmente, insomma. A cui poi a fianco ci sono anche molte cose scritte, raccolte assieme, durante le ricerche. Insomma, tutti i momenti della mia vita, insomma. La predicazione di Camillo Prampolini all'inizio del secolo fece sì che dappertutto si cominciò a pensare che Gesù poteva essere considerato il primo socialista. E questo è uno dei molti, insomma, ce ne sono state parecchie, immagini di Cristo socialista. Lo si può capire dalla, Dalla scritta, la natura ha stabilito la comunanza dei beni, la usurpazione ha prodotto la proprietà privata. Questo è stato stampato nel primo dopoguerra. Corso Regina Celi, c'è una salita dove Matteotti lasciò la vita. Questa è un'esecuzione della canzone Povero Matteotti, fatta dalle Mondine di Trino Vercellese e da me registrata negli anni 60. Hanno provato molte volte questa canzone perché volevano farla il meglio possibile. Dunque, questo è uno dei due piani della casa e, come vedete, è molto piena di roba. E schedarla sarà molto duro e difficile. Comunque, con coraggio ci siamo messi e abbiamo cominciato a portare avanti questo progetto di cui vi parlerà lei. Nel 2018 l'archivio di Cesare Bermani è stato dichiarato di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza ai beni archivistici e bibliografici del Piemonte e della Valle d'Aosta, in quanto fonte unica e imprescindibile per sia la storia del movimento operaio che per la storia della cultura popolare. E da allora c'è stato il bisogno quindi di metterlo a posto, di digitalizzarlo, di schedarlo per renderlo accessibile al pubblico. Cesare ha quindi deciso di affidare la gestione del suo archivio all'Associazione Veneziana Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino, che ha trasferito qui la sua sede operativa per lavorare continuamente, costantemente alla risistemazione dell'archivio. Siamo riusciti ad avere due importanti contributi, uno due anni fa da parte della Direzione Generale degli Archivi e uno quest'anno dalla Fondazione Comunità Novarese, in particolare dal bando Dottor Giovanni Pagani, che è rivolto agli archivi e alle biblioteche del territorio novarese. Il nostro è stato uno dei cinque progetti che hanno vinto questo bando e quindi adesso stiamo lavorando finalmente alla schedatura delle cartelle d'archivio e ancora alla digitalizzazione dell'archivio sonoro. Qui c'è il lavoro di una vita e ci sono soprattutto i racconti e le storie di vita di tantissime persone che sono imprescindibili per la storia del movimento operaio. Di Papa Roma non ne vogliamo più, prima San Pietro e poi San Paolo, e le loro teste vogliamo per tagliare la ghigliottina. E le loro teste vogliamo far saltare, darmi la ghigliottina. E le tre teste vogliamo far saltare. E a Roma, Roma, cantavano le puttane, suonavano le campane, che è morta il puttane, le mie è morta vignata, fior d'una vacca, buon brodo si farà. Le butteremo in una pignata, fior d'una vacca, buon brodo si farà. E sulla mura di quei conventi piazzeremo i nostri cannoni. E avrete i frati, quei birbancioni, il buongiorno lo daremo noi. E ai preti colla. Funziona. No, volevo solo dire una cosa, ringraziare quelli che hanno praticamente fatto questo filmato, che sono Flavio e Danilo, che è là in piedi, e poi Tiziana, Robertino, che insieme abbiamo appunto messo in piedi questo filmato. Adesso lasciamo la parola ai compagni delle Officine Primo Maggio e a Cesare, con cui cercheremo anche di dialogare sul materiale del suo archivio, su quello che sta facendo. Io vado via facendoti una domanda. So che stai lavorando a un libro, sempre dal tuo materiale, che riguarderà militanti politici degli anni 20. Siamo nel centenario della famigerata marcia su Roma, ma anche delle barricate di Parma, e io non so se questo rientra in questi militanti, queste interviste riguardano questi fatti, però so che ci stai lavorando. Ma se vuoi dirci qualcosa prima poi di entrare in conversazione con loro, e lascio il campo ai compagni della rivista Officine Primo Maggio. No, volevo intanto ringraziare chi ha fatto questo video, che io non avevo visto e lo vedo adesso, e che mi sembra renda abbastanza l'idea dei materiali che ci sono nel mio archivio. Devo aggiungere che tante cose io non ho parlato. Per esempio, c'è un sterminato numero di lettere delle famiglie Berrini, Balconi e Paietta. Quindi le lettere di Giancarlo, di Giuliano, della Marcella Balconi, del padre della Marcella Balconi, che era stato un importantissimo creatore di cooperative e di banche operaie, per esempio, negli anni 20. Per quel che dicevi tu, non c'è più. Sei là. No, per quel che dicevi tu, sì, effettivamente sto lavorando questo libro, che è un libro sulle testimonianze che riguardano la battaglia di Novara, che è stata una battaglia cruenta nel 22 e che sostanzialmente mi ha portato a registrare decine e decine e decine di comunisti soprattutto, ma anche di anarchici e di socialisti in provincia di Novara, e ho pensato di pubblicarle, grazie anche all'aiuto di un compagno che si chiama Marcello Ingrao, che mi aiuterà a fare questo libro, per il quale stiamo cercando le fotografie dei personaggi. È un libro curioso perché, per esempio, di Moscatelli, che io credo di aver registrato 50 ore con Moscatelli, però ho scelto Moscatelli ragazzo, 14enne, 15enne, che partecipa alla battaglia contro i fascisti a Novara, e quindi questa è stata l'idea, è quella proprio di polarizzarsi su quegli anni lì. Poi ci sono altri materiali, per esempio ci sono delle lettere di Giuseppe, no, del Pinella Rimola, che è un comunista che è stato fucilato a Butovo in Unione Sovietica e che si voleva assolutamente che non venisse più ricordato, che io invece ho voluto ricordare in uno dei libri che è stato fatto vedere e di cui ho trovato anche delle lettere abbastanza interessanti. Ecco, un fondo di cui non ho parlato è il fondo appunto dei comunisti che hanno trovato la morte in Unione Sovietica, che negli anni 70, 60, 70 ho cominciato a cercare, registrando le mogli, registrando le famiglie, eccetera, eccetera. Altre cose di cui stiamo facendo in questo periodo, la schedatura dei fogli, insomma, delle cose che sono... Io avevo calcolato che fossero 2000 cartelle e qui già è saltato per aria tutto, perché in realtà sono più di 6000, e quindi mi trovo proprio nelle grane. Avrei bisogno di manodopera che mi aiutasse, perché lavorare da solo diventa, posso anche sovraintendere, ma lavorare da solo diventa molto duro su quell'aspetto lì. Altre cose che stiamo facendo, abbiamo pensato intanto di cominciare a digitalizzare una importante rivista del Novarese socialista dall'Ottocento in poi, che è l'Aurora dell'Alto Novarese, che siccome è introvabile abbiamo pensato che fosse giusto digitalizzare, che metteremo poi in internet. Insomma, queste sono le prime cose che voglio fare. Insomma, l'idea è quella di trasformare ovviamente casa mia in un centro studi e di fare in modo che mi sopravviva lungamente. Questo almeno è la mia speranza. Poi non so se si realizzerà, perché tra una guerra e l'altra si può benissimo sparire tutto, no? Credo di non avere altro da dire sull'archivio. Grazie Cesare, in realtà confidiamo di farti dire anche qualcos'altro sull'archivio, perché vorremmo incrociare un po' le piste, diciamo, di biografia e di ricerca di Cesare Bermani con un po' la biografia, la storia e anche il presente di Primo Maggio, del lavoro che tu hai fatto nella redazione di Primo Maggio e del lavoro che la nuova redazione Officina Primo Maggio ha ricominciato a fare dal 2018 in avanti più o meno. Io sono Sara Zanisi, sono della redazione di Officina Primo Maggio, insieme a me c'è Mattia Mattia Cavani, sempre della redazione di Officina Primo Maggio. E noi in realtà oggi vorremmo proprio dialogare con Cesare per tenere insieme un po' la storia e il presente del lavoro che tu hai fatto e le cose che abbiamo visto. In realtà invitiamo tutti ad andare già a vedere quello che sarà il centro studi, nel senso che la casa di Cesare e il suo archivio sono aperti. Lui ha aperto le porte anche a noi l'anno scorso per un'intervista. Io, insieme ad Andrea Bortalico, sono andata ad intervistarlo lo scorso luglio proprio nella casa che avete visto, nella casa archivio che avete visto anche nelle immagini. Prima di parlare di questo, in realtà io chiederei a Mattia appunto di, se vuoi semplicemente dirci che cos'è oggi Officina Primo Maggio, così poi facciamo invece un rientro veloce su che cos'è stato Primo Maggio. Va bene, sì. Grazie, ciao. Che cos'è oggi Officina Primo Maggio? Beh, non lo so, possiamo parlare dell'ultimo numero forse, così andiamo subito nel concreto. No, diciamo che è una rivista che riprende la tradizione di Primo Maggio e alcuni membri della redazione, insomma, storica ci sono. Poi in questo numero appunto c'è l'intervista a Cesare, c'è un articolo di Antonella, e abbiamo intervistato nel numero 3 c'è un'intervista a Bruno Cartosio e Sergio Bologna, e d'altra parte però sono anche, appunto, come diceva Sara, ricercatori, insomma, di altre generazioni che portano avanti un po' alcuni filoni, alcune metodologie, diciamo, di Primo Maggio. Quindi la base è l'inchiesta, fondamentalmente la stragrande maggioranza degli articoli che trovate nella rivista sono inchieste svolte, insomma, a partire dal lavoro e sui filoni, alcuni dei filoni storici della rivista, come la logistica E appunto nell'ultimo numero parliamo sia di logistica editoriale con le lotte dei Cobas di luglio, che tra l'altro riferimento a un evento che abbiamo fatto qui in Calusca il 14 luglio appunto, ma anche della logistica delle guerre. C'è una parte della redazione, cioè Carlo Tombola, che questo progetto di schedatura, di fatto è un archivio della logistica delle armi in Europa, fatto attraverso un rapporto con le lotte dei portuali. E quindi è un progetto molto interessante che in questo periodo qua è ancora più attuale, perché appunto se seguite il loro sito, che si chiama The Weapon Watch, stanno seguendo ovviamente tutta la questione dell'Ucraina, e quindi su questo numero c'è un'intervista in cui viene presentato un po' questo progetto e l'idea che ci sta dietro. Un altro filone che stiamo seguendo sull'industria è la trasformazione dell'industria con Industria 4.0, che è un po' quel tipo di produzione ad alto contenuto di tecnologia e con appunto insomma che sfrutta al massimo la globalizzazione, quindi i tempi sono molto stretti, si riducono le scorte, quel modello che in parte è andato in crisi in quest'ultimo periodo con i blocchi della catena del valore internazionale. Dunque insomma qui trovate anche qualche strumento per comprendere meglio questi aspetti qua. E poi, guardando l'ultimo numero, abbiamo, stando sul pezzo in questo momento, la questione del salario minimo, che insomma abbastanza d'attualità. Siamo riusciti a mettere insieme sia un rappresentante della CGIL, che insomma sapete forse un sindacato che ha posizione un po' ambivalente, diciamo così, su questo tema, e anche un economista insomma critico su questo tema e altre realtà sindacali come ACTA. E quindi insomma c'è venuto fuori una lunghissima intervista, litigio, scambio, come volete, però secondo me abbastanza frizzante, dove un po' si vedono un po' tutte le tematiche principali. Anche qui sul salario minimo ci si può orientare. Poi però sicuramente l'articolo più bello, più interessante, è l'intervista che ha fatto Sara e Andrea a Cesare, quindi ha fatto la palla sicuramente. A questo punto riprenditi anche tu il microfono, Cesare, perché su questo appunto a me piacerebbe approfittare del fatto di essere qua insieme per riprendere un po' questo dialogo, che non è tanto un dialogo appunto tra Sara Zanisi, Andrea Bottalico e Cesare Bermani, ma è idealmente proprio un dialogo tra la vecchia redazione di Primo Maggio, quindi soprattutto gli uomini, perché questo è da sottolineare, la redazione storica di Primo Maggio. Primo Maggio credo sia un po' superfluo raccontarlo qui, però mi piace ricordare che Primo Maggio insomma nasce con Calusca, nasce con Primo Moroni, e è una rivista che è stata pubblicata dagli anni 70 fino alla fine degli anni 80, l'ultimo numero è proprio dell'89, quindi è una rivista longeva, cioè è durata più o meno una ventina d'anni, ed era davvero una rivista che in quegli anni, anche negli anni 80, era un punto di riferimento proprio per il pensiero critico e anche per l'organizzazione comunque. Quindi è sempre stata una rivista, ma anche un progetto proprio di organizzazione culturale e di riflessione proprio sul conflitto e su come poter organizzare il movimento. Nel 2018, in occasione proprio di un numero speciale che si è voluto fare per ricordare Primo, si è riunita la redazione storica, ma aggregando anche una serie di voci nuove, soprattutto di voci giovani. Ecco, io rappresento in realtà quella, diciamo, generazione di mezzo, perché io non sono giovane, a differenza invece di Mattia, dell'altro gruppo, appunto di 25-35 anni, loro possono più correttamente rimanere, diciamo, in questa categoria. Appunto in quell'occasione la capacità di Sergio Bologna, di Bruno Cartosi, è stata quella di intercettare delle voci appunto nuove, dei redattori e delle redattrici nuovi, con cui è ripartita l'idea di, insomma, è rinata l'esigenza di provare a riaprire uno spazio di riflessione, che quindi è non solo una copia cartacea che vedete, che potete tra l'altro anche acquistare oggi, sostenendo poi il progetto e sostenendo insieme a noi anche Calusca, che da subito insomma ci ha comunque accompagnato in questo viaggio, ci mette sempre a disposizione lo spazio e è uno dei pochi punti in cui è possibile sempre trovare le copie della rivista, perché a differenza degli anni 70 in realtà oggi appunto la distribuzione e la presenza anche di realtà sul territorio, sapete meglio di me, è molto molto diversa da allora, quindi anche la possibilità di organizzare dei momenti di incontro come questo sono davvero importanti per incontrarci, per trovare la redazione, e anche perché appunto la redazione è comunque ancora un'esperienza molto aperta, cioè c'è una grande disponibilità appunto a, dentro questa cornice ampia che è l'inchiesta, perché questo rimane comunque questa continuità con il metodo, si sono aperti appunto degli spazi sia di temi ma anche appunto di problemi, perché l'idea è quella di tenere sempre una lente concentrata su quello che sta succedendo per provare a intercettare, questa è stata la capacità storica di Primo Maggio in qualche modo, pur avendo soprattutto un gruppo di storici, perché c'è da dire che insieme a Cesare c'era appunto Sergio Bologna, Bruno Cartosio, Sandro Portelli, era davvero un gruppo, e di sociologi, perché c'era poi invece tutto il mondo più dedicato, e oggi ancora la redazione è un po' costituita in questo modo. A me piace diciamo introdurre un po' Cesare ricordando anche un bellissimo lavoro che lui ha fatto ormai più di 10 anni fa, è del 2010, questa storia di Primo Maggio, in cui appunto si è ricostruita proprio la vicenda della redazione, grazie anche al fatto che Cesare conserva l'archivio, come ci ha detto. Un archivio che è fatto di carte, ma è fatto anche di audio, perché sapete Cesare ha da sempre, l'abbiamo visto anche nel percorrere a sommi capi il suo archivio, ha sempre tenuto vicino a sé un registratore, ha sempre acceso questo registratore anche quando c'erano le riunioni. E proprio in un passaggio anche divertente del colloquio che abbiamo fatto insieme a Luglio ci raccontava, noi abbiamo proprio chiesto se ci sono ancora questi sonori, perché ci piacerebbe anche fare un lavoro un po' di recupero della storia attraverso le voci. E appunto ci dicevi che questa è una delle parti dell'archivio non ancora digitalizzato, anche perché i nastri che avete intravisto anche nel bellissimo video con cui abbiamo aperto la serata sono dei nastri analogici e sono dei nastri quindi che si hanno bisogno anche di una conservazione e di un restauro, per cui ci raccontavi proprio di come hai scoperto che i fornetti che si usano per essiccare i funghi vanno molto bene anche per i nastri, per cui qualche intervento sei riuscito a farlo in questo modo, però capite che in realtà c'è bisogno proprio di un intervento come quello che stanno progettando di conservazione e appunto prima della digitalizzazione c'è proprio un lavoro di condizionamento anche dei materiali che viene fatto proprio da una squadra di professionisti, cioè di archivisti e quindi di figure che sono in grado di gestire, condizionare e trattare questo tipo di materiali. L'operazione già veramente intelligente che avete fatto nel 2010 insieme a questo volume era anche quello di tenere la copia digitale di tutta la rivista storica, quindi tutte le edizioni di Primo Maggio sono state digitalizzate, sono disponibili in un CD che è allegato a questo volume e sono poi in realtà anche state portate sono disponibili adesso anche online su inventati.org, se ricordo bene, esatto, sono state poi riversate, quindi sono comunque disponibili alla lettura aperta di tutti quanti. A me piacerebbe riprendere, anche per ricollegarci alle cose che abbiamo visto nel video prima, riprendere un po' un punto, diciamo partire dalla tua biografia, Cesare, e quindi se hai voglia di raccontarci qualcosa in più diciamo della tua esperienza personale di giovanissimo, di ragazzino giovanissimo che ha vissuto anche durante il fascismo e quindi che ha visto soprattutto l'impegno della propria famiglia anche nella resistenza, e qui se hai voglia di fare un passaggio lo troverete poi anche nell'intervista, se avete voglia di leggere, di prendere la rivista e di leggere la sua intervista, quando ci parli proprio di tuo nonno Cesare, del tuo omonimo, e quindi se vuoi farci un racconto anche su come è stata la tua esperienza diretta di quel periodo, E di come questo poi si è agganciato alla tua diciamo motivazione nel voler fare il lavoro di storico, e soprattutto di storico che ha usato la metodologia della storia orale, cioè di questo interesse per andare ad ascoltare le voci, le esperienze dirette degli uomini e delle donne che hanno fatto quel pezzo di storia. Quindi proverai magari a partire da questo aspetto. Sì. Di spegnere il telefono, a proposito di voci e rumori, no, spegniamo intanto il telefono mentre magari Antonella, ma spero che sia collegata. No, non siamo riusciti a collegarci con Antonella, quindi è molto probabile che sia lei. Dimmi. Che chiede notizie su dove siete finiti. Ciao. E sono impegnato, ti chiamo stasera. Ciao. Scusate, la responsabile dell'AMPI che mi chiedeva. Anche lei voleva sapere dell'impegno del coinvolgimento della tua famiglia nella resistenza. Dunque, no, il problema è questo, che al tempo del fascismo io ero piccolo, ma credo che sia stato fondamentale proprio il fatto di essere piccolo, perché vivevo le cose da bambino e quindi in modo assolutamente non ideologico. Questa cosa è fondamentale per me, perché per esempio aver visto in azioni partigiane da ragazzo, da bambino, insomma avevo 6-7 anni, è molto importante, perché credo che sarei stato un pessimo storico se non avessi avuto quell'esperienza da bambino di vederli in azione, di capire come agivano, di come entravano nelle case, di come dialogavano con le persone, di come si muovevano, insomma. E appunto io avevo raccontato di alcuni episodi che mi avevano lasciato, restano precisissimi nella mente dei bambini di allora. Ancora ieri mi è successo che una mia coetanea, insomma, a 2 anni meno di me, a un certo momento della conversazione per telefonica mi è venuto in mente di chiedergli se avesse mai sentito Bella Ciao, e lei mi ha detto sì, la cantavo da bambina, quindi negli anni della guerra, che è una cosa verissima, perché i fascisti continuano a dire che Bella Ciao non è una canzone della resistenza, e questo io lo trovo molto divertente, perché ci sono decine e decine di testimonianze di persone che ricordano di averla cantata durante la resistenza, di averla sentita cantare durante la resistenza. C'è un bellissimo racconto, per esempio, di una signora torinese che si chiama Diana, la quale appunto racconta che ad alba, di averla sentita durante i giorni di alba, e di aver accompagnato al cimitero con tutti i ragazzini che battevano su casseruole mentre cantavano Bella Ciao, di aver accompagnato questi due fascisti al cimitero con grande gioia, no? Contentissimi che fossero stati ammazzati. Perché uno era un torturatore, e anche la donna pare che non fosse un granché, insomma. E lei racconta questa cosa, per esempio. Ma poi, voglio dire, decine di persone hanno documentato questa cosa. La cosa interessante è che questa storia di Bella Ciao, che sembrerebbe acquisita, perché, voglio dire, mettere in dubbio che Bella Ciao sia una canzone partigiana è veramente un'idiozia oggi. E la cosa curiosa è che comunque ancora recentemente presenteranno un film a Bergamo, c'è una specie di rassegna cinematografica cui appunto ho partecipato anch'io, questo film fatto da questa regista, è una ragazza di Bologna che si chiama giapponese. La cosa interessante è che la RAI voleva tagliare la parte dove io raccontavo che Bella Ciao è stata cantata nella Maiella, cioè questo doveva sparire. Allora io ho avuto un discorso con la RAI in cui ho detto va bene, allora sparisco del tutto, per favore tagliate tutte le parti che mi riguardano, perché io non voglio partecipare a una cosa che avvalla quest'idea che Bella Ciao non è stata cantata durante la Resistenza. E allora ci hanno ripensato, mi hanno richiamato e hanno rimesso dentro questi pezzi. Ma per dire che la storia, e anche, quindi anche le canzoni, eccetera, è sempre storia militante. Cioè sei sempre in battaglia, perché questi fanno di tutto per oscurare qualunque parte del passato, della storia del movimento operaio, della storia dell'opposizione in Italia, della storia della, chiamatela come volete, della sinistra in Italia, insomma. E quindi ho perso il filo, naturalmente. Dimmi cosa stavo dicendo. No, rilancio partendo proprio da questo riferimento alla storia militante, nel senso che la storia militante è stata una delle, diciamo, delle radici di Primo Maggio, sì, nel senso che era proprio una rivista per la storia militante, ed è anche una delle ragioni per cui Primo Maggio risorge e l'Officina Primo Maggio parte, nel senso che si è sentito proprio il bisogno di ricominciare a dare spazio, perché non che non ci fosse anche negli anni passati, ma di nuovo a dare spazio e dare voce appunto a chi fa storia militante e anche a cercare di capire come è possibile fare storia militante ancora oggi. Sì, no, e voglio dire anche perché è buffo che si pensi seriamente che siccome c'è stata una sconfitta allora non si debba più militare. Questo è un po' curioso. Voglio dire, c'è stato anche il fascismo di mezzo tra la Prima Guerra Mondiale e il 45, ma nessuno si è mai sognato di non cercare di militare, e infatti a un certo momento i frutti ci sono stati. Poi ci sono dei periodi in cui chiaramente prendi le tue legnate in testa e però se non ti ammazzano puoi anche ripartire, insomma. Beh, diciamo che insomma, questo periodo appunto in qualche modo, diciamo, questa resistenza e questa ostinazione anche, no? nel continuare ad essere coerenti con il proprio modo di vivere, ma anche il proprio modo di fare ricerca, credo che insomma tu sia uno degli esempi con cui possiamo appunto confrontarci anche oggi, anche direttamente. E proprio perché siamo qui e proprio perché questo è il lavoro che a noi interessa portare avanti, la domanda ritorna proprio a come hai incontrato Primo Moroni, come hai deciso di iniziare, perché questo lo dico magari per chi non sapesse meglio la storia di Primo Maggio. In realtà Cesare entra in redazione solo al terzo numero, mi sembra di ricordare, al terzo o quarto numero, quindi i primi due numeri non era nella redazione, e qua ci piacerebbe appunto sentire direttamente della tua voce come hai conosciuto Primo Maggio, come hai deciso di entrare nella redazione e come poi in realtà hai lavorato per tanti anni in modo anche molto proficuo e le cose anche che hai sperimentato come storico dentro questa rivista. Ma la questione è questa: Primo Maggio parte nel 73, quindi c'è già stato il 68, e nel 73 parte, e qui c'è un errore sulla vostra copertina, perché io non sono uno dei fondatori di Primo Maggio. I fondatori di Primo Maggio sono Cartosio, Mogni e Sergio Bologna. Questi sono i fondatori di Primo Maggio. Poi la redazione si spacca immediatamente dopo il numero 2 e si trovano in difficoltà perché avevano bisogno di persone anche che la mandassero avanti. Primo Moroni, che era quello che aveva avuto l'idea di pubblicare la rivista con la Calusca allora in porta ticinese, si è detto che ha capito che quello che io stavo portando avanti, facendo, cioè la storia della resistenza in un certo modo, il fatto che io registrassi sempre le fonti orali, queste cose qui avrebbero potuto avere uno spazio importante dentro alle oddio, come si chiamavano, le 150 ore, dentro le 150 ore. E infatti così è stato. Quindi ho lavorato anche dentro alle 150 ore e mi sono trovato col terzo numero a partecipare al Primo Maggio. La cosa curiosa è che, pur non essendo uno dei fondatori, sono quello che ha avuto la più lunga presenza in Primo Maggio, perché naturalmente ci sono stati dei problemi, cioè a un certo momento Sergio Bologna ha avuto delle vicende molto pesanti da parte della una vera e propria persecuzione all'università e ha dovuto anche andarsene dall'Italia, e quindi per tutto un periodo lui non c'è stato. Paradossalmente è importante che sia andato in Germania, perché poi si è in questo modo collegato con questi gruppi tedeschi che erano molto attivi e creativi, sia sul piano della storia orale che sul piano della militanza, e quindi quando è tornato in Italia avevamo allargato la nostra presenza, forse fin troppo, perché a un certo momento c'erano anche gli inglesi, i quali inglesi, forse io non parlo inglese, quindi non conoscevo bene la lingua, e a un convegno di Mantova, a un certo momento, c'era questo inglese, metalmeccanico inglese, che si chiamava Martin, il quale continuava a chiedermi di trovargli un posto da dormire, e io dicevo: guarda che non sono io che mi occupo di trovare i posti da dormire ai compagni, rivolgiti all'incaricato. E lui tornava sempre alla carica. A un certo momento io mi sono incazzato e gli ho detto: senti, e gli ho detto una frase che lo ha mandato in bestia. Gli ho detto: se Lenin si fosse comportato come tu ti stai comportando con me, non avrebbe fatto la rivoluzione d'ottobre. Questo ha significato che è partito un pugno che mi ha mandato gli occhiali a 15 metri di distanza, no? E a me un occhio nero così. È per questo che scherzavo sul fatto che poi si è allargato anche all'Inghilterra, mentre con gli Stati Uniti non abbiamo avuto problemi. I compagni degli Stati Uniti sono sempre stati corretti e non maneschi. Beh, qui faccio io un inciso, nel senso che un'altra delle caratteristiche di Primo Maggio della rivista storica è stato proprio quello di intercettare tutto un gruppo di americanisti fondamentali, come appunto Sandro Portelli, Bruno Cartosio, Nando Fasce, persone che hanno appunto sempre studiato profondamente la storia americana e la storia anche dei movimenti in America, soprattutto la storia dei movimenti in America. E questa è una delle cose che ad esempio anche la nuova redazione sta cercando di fare. Abbiamo fatto anche un opuscolo, un numero speciale della rivista che trovate in realtà solo online. Questo, ecco, non vi abbiamo detto che la rivista ha anche un sito, che siamo veramente dei promotori preparati e convinti. Allora, la rivista ha anche un sito che appunto è officinaprimomaggio.eu, dove trovate in realtà poi in accesso libero tutti gli articoli dei numeri precedenti e del numero in corso, anche perché facciamo questa operazione folle, cioè di provare a promuovere una rivista cartacea in contemporanea anche digitale, perché siamo convinti che in realtà chi ci segue, i nostri lettori e le nostre lettrici, siano anche sostenitori del progetto, quindi siano disponibili a comprare la rivista e a sostenerci, quindi in questo modo a permetterci di continuare a fare il lavoro che facciamo, ovviamente lavoro militante, quindi fondamentalmente a noi servono le risorse per poter produrre, quindi stampare, produrre e distribuire la rivista, non certo per finanziare il nostro lavoro, che è un lavoro totalmente militante. E abbiamo fatto appunto questo opuscolo dedicato agli Stati Uniti, curato proprio da Bruno Cartosio, che trovate solo online, però, perché questo temo che non sia più disponibile in copia cartacea. E quindi questo appunto, insomma, che ci hai fatto agli americanisti che hanno seguito la rivista è davvero importante, perché è uno dei filoni su cui stiamo ancora lavorando. Sì, è abbastanza curioso che eravamo un gruppo, non eravamo tutti comunisti, ma voglio dire orientati decisamente a sinistra, che tutto sommato guardava più agli Stati Uniti che non all'Unione Sovietica. Questa è un'altra delle caratteristiche di Primo Maggio, insomma. No? Direi che è così. Assolutamente. Su questo in redazione ci siamo anche confrontati, su questo c'era anche un aspetto proprio di conoscenza della lingua, nel senso che era più facile conoscere l'inglese che il russo, sì. E siccome appunto si è sempre praticato questo metodo dell'inchiesta, quindi in qualche modo della presa diretta anche sulle situazioni che si andavano ad osservare, questo è sempre stato un limite. Quindi in questo senso invece la conoscenza del tedesco e dell'inglese, proprio perché c'era questa desiderio, intenzione e scelta proprio radicale di essere presenti sul campo, quindi di fare ricerca sul campo, e quindi non conoscere la lingua era ovviamente anche un limite per non poter fare una, oltre al fatto che insomma potevano essere... Qui tocchi un punto molto importante, perché in un'epoca in cui tutto il mondo è in casa e viceversa, ho trovato molto interessante che il mio amico Marcello Ingrao abbia fatto un libretto sull'Ucraina in 8 lingue, tradotto in 8 lingue, e quindi russo, spagnolo, portoghese, e questo è il futuro, questo secondo me è il futuro dell'editoria e della ricerca militante. Noi ahimè ci limitiamo invece a tradurre ancora sempre solo in inglese, cioè stiamo cercando di fare anche questa cosa di almeno alcune parti di riuscire a tradurle in inglese, proprio perché per renderle disponibili comunque anche a lettori e lettrici che non possano leggere la lingua italiana. Chissà se ce la faremo prima o poi ad essere più internazionalisti, e quindi a poterlo garantire anche in più lingue, che non sia sempre solo l'inglese come lingua appunto veicolo per... A me piacerebbe sapere, insomma, siamo ovviamente dialoganti anche con le persone che abbiamo davanti, quindi se ci sono interventi, domande o appunto commenti da fare sia sull'operazione che si sta facendo sull'archivio di Cesare che sull'operazione appunto che stiamo facendo noi come Officina Primo Maggio, siamo ovviamente ben contenti di rispondere e dialogare anche con voi. La butto lì, lascio poi il tempo, se avete effettivamente delle domande, degli interventi, ci potete anche interrompere anche più avanti. Io approfitterei però per ritornare di nuovo, incrociare di nuovo le piste tra la valorizzazione dell'archivio di Cesare e le cose che noi invece stiamo facendo come redazione di Officina Primo Maggio, per tornare a chiederti una cosa invece su questo lavoro che stai facendo su il 1922, quindi su diciamo, l'esordio del fascismo, e quindi questo lavoro, questo libro che è in cantiere, se vuoi raccontarci anche qualcosa in più se anche in questo caso hai delle interviste, delle testimonianze su cui stai lavorando, o quali sono le fonti su cui stai lavorando. Ma dunque, io intanto c'ho un po' il dente avvelenato con la mia città, perché cosa è successo? Che questa battaglia purtroppo persa e che ha aperto poi la strada alla marcia su Roma, perché la marcia su Roma non ci sarebbe stata se il fascismo non fosse riuscito a distruggere tutti i circoli operai, tutto quello che c'era di sinistro nel Novarese e nel Vercellese. Nella mia città era sparita assolutamente il ricordo di questa battaglia. Io mi sono messo lì, ho cominciato a registrare, sono andato a cercare tutti quelli che ho trovato che avevano preso parte a questa battaglia, e ho raccolto un mare di cose su cui poi ho fatto un libro che si chiama La battaglia di Novara, che è appunto un libro su queste giornate del luglio 22, in cui appunto è avvenuta la distruzione circolo per circolo, mi pare che abbiano distrutto, non mi ricordo più, ma 120 circoli, insomma, perché era molto importante per i fascisti riuscire a sgominare quella che era la provincia rossa, così era chiamato il Novarese, Biellese. E quindi mi sono dedicato molto a quegli anni, perché mi sembrava che fosse importante sapere come fossero avvenute queste cose. Però mi sono poi trovato con tutto questo materiale davanti, che è un materiale immenso di compagni di base, ma anche di persone importanti. Per esempio c'è Corrado Bonfantini, che è stato il fondatore delle Brigate Matteotti, e poi si imparano tante cose studiando, perché per esempio Corrado Bonfantini, che come dico è stato molto importante, è quello che per primo a Milano prende la parola nel momento dell'insurrezione, è certo più importante di Pertini in quel momento, e poi Pertini lo fa fuori perché insomma politicamente gli interessava avere più peso insomma su Milano. Poi Corrado era anche un po' folle per alcuni aspetti, io l'ho conosciuto molto bene fin da bambino, e perché le nostre famiglie erano molto molto vicine, e Corrado per esempio ha avuto un grossissimo torto di non accorgersi che un socialista, questo però poteva capitare a chiunque, fosse una spia dell'ovra, e quindi attraverso i discorsi tra questo socialista suo amico e lui, l'ovra ha potuto fare vari arresti. Non solo quello di Camillo Pasquale, che poi sarà sindaco di Novara, che allora era, ma voglio dire, c'entrò anche con gli arresti di Giustizia e Libertà a Torino, insomma, questo fatto. Ma per dire che scavando su questo, che allora Corrado era nel Partito Comunista ed era un giovanissimo, no? Nel Partito Comunista, e mi è sembrato interessante poter ricostruire i primi anni della sua azione, trascurando poi, non interessandomi del periodo glorioso suo, perché direi che anche da quella storia lì si impara molte cose. Poi un altro personaggio chiave di Novara è Alberto Iacometti, su cui abbiamo avuto anche degli scontri politici spaventosi in piazza, lui ed io, no? Perché io allora ero segretario della provinciale della Federazione Giovanile Comunista e lui mi attaccò pesantemente dicendo che i comunisti mi avevano messo in lista durante una campagna elettorale per il mio nome, per il mio cognome. Io naturalmente mi sono incazzato come una iena per portare voti a mio padre. Mi ricordo che feci una scena che quasi mi arrestano, ma poi i socialisti non hanno avuto il coraggio di chiamare i carabinieri, perché ero presente al comizio di Iacometti. Mi sono incazzato come una iena a queste sue insinuazioni. Ma comunque Iacometti, di cui poi sono rimasto amico, era oltre che un dirigente dell'ARCI, uno dei fondatori dell'ARCI, e per cui io, occupandomi del mutuo soccorso e in genere dell'associazionismo, di quel tipo di associazionismo ho frequentato parecchio, è stato anche un personaggio importantissimo nell'estradizione, cioè in Belgio, in Francia, dove c'erano appunto i socialisti, e mi è sembrato giusto anche raccogliere queste storie, e visto che poi non le ho elaborate storicamente, almeno dare questi materiali a chi abbia voglia di lavorarci poi su, con qualche nota naturalmente, e questo è il libro che sto preparando, insomma. Grazie Cesare anche per questo, perché penso che nei prossimi mesi saremo in realtà abbastanza, diciamo, come tutti gli anniversari portano una produzione editoriale ovviamente legata all'anniversario, forse questo sarà uno dei libri che potremo leggere nei prossimi mesi, che ci permetterà anche di superare un po' questa retorica che temo ci sarà poi a ridosso dell'anniversario del centenario della marcia su Roma. Quindi grazie davvero, perché appunto poter attingere direttamente a queste fonti, queste storie di vita, penso che sarà una cosa davvero molto preziosa. E soprattutto perché credo davvero che siano delle esperienze interessanti proprio per cercare di capire come l'antifascismo è riuscito a sopravvivere al fascismo. Cioè ci fa vedere proprio come questo collegamento, cioè nonostante i 20 anni di dittatura, i militanti di base e anche i dirigenti sono riusciti in qualche modo ad organizzare una resistenza che è durata quei 20 anni e che è riuscita anzi poi nell'ultimo decennio di guerra, perché non ci pensiamo, ma in realtà una delle ragioni per cui il fascismo è crollato è proprio stato il fatto che dal 35 al 45 ci sono stati 10 anni di guerra, cioè anche se l'Italia entra nella seconda guerra mondiale solo nel 40, in realtà si comincia con la guerra di Libia nel 35, poi la guerra di Spagna, insomma sono stati 10 anni di guerre. E in qualche modo questa capacità di resistenza che alcune delle persone che poi tu hai avuto la fortuna, insomma, di poter conoscere e intervistare una volta liberata l'Italia, credo sia interessante proprio provare a capire, almeno questa è sicuramente stata una delle domande che per molti storici e storiche, dei migliori insomma, che hanno cercato di comprendere il fascismo, si sono chiesti proprio come hanno fatto a resistere, a mantenere questa resistenza e arrivare quindi poi a sconfiggere il fascismo. Sì, c'è anche l'altra faccia della medaglia, che studiando quegli anni puoi anche capire come mai il fascismo non sia mai stato completamente sconfitto in questo paese. Esatto, e anche questo qua però vi lascio un po' di curiosità, perché anche di questo ci ha parlato Cesare nell'intervista che gli abbiamo fatto e che potete leggere nella rivista che trovate nel banchetto all'ingresso. E quindi perché anche su questo, insomma, hai fatto delle riflessioni, hai condiviso con noi delle riflessioni interessanti proprio sulla continuità che c'è stata sia nell'immediato dopoguerra, ma ahimè anche in tutti i decenni successivi, e che ahimè continuiamo a toccare con mano anche oggi. Io vi chiedo davvero se ci sono altre domande o commenti, che se volete approfittare del fatto di avere Cesare qua con noi, e ringraziandolo anche di essere sceso da Orta fino a Milano per stare ancora un po' con noi, perché altrimenti credo che poi sarà possibile rivedere il filmato che abbiamo mandato in apertura. Questo lo dico soprattutto per le persone che ci hanno raggiunto dopo, che quindi insomma in chiusura faremo rivedere questo filmato dedicato all'intervento che Cesare insieme ad Antonella De Palma sta facendo di valorizzazione e conservazione dell'archivio di ricerca e di lavoro di Cesare. Temo che Antonella non sia... purtroppo non siamo riusciti a collegarci con Antonella De Palma, che appunto della Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino di Venezia, che sta insieme a Cesare intervenendo sull'archivio, ma temo che sia un problema di rete nostro, almeno prima c'era un problema di connessione nostro per cui non si riusciva a collegarsi con Antonella, e temo che sia quello. Ma Nicola sta nascosto là dietro, quindi non so. Via telefono? Beh, se riusciamo a dare la parola ad Antonella, volentieri, che così ci può dire qualcosa su come sta lavorando sull'archivio. Prima, anche perché questo, diciamo, è un modo per salutarvi come Officina Primo Maggio, ridare invece spazio a Cesare Bermani e al suo archivio prima del filmato che rivedremo di nuovo. Cesare, grazie, grazie mille. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con Antonella. Scusate, cercando di capire se funziona la connessione. Grazie, grazie anche a tutte voi e tutti voi. Domande per Cesare? Non mi sembra ce ne siano, non vedo interventi. Stai chiamando tu Antonella? Sì, sto chiamandola, spero che risponda. Non riesco a parlarle. Ah, ci sei. E allora, cosa? Aspetta che ti passo. No, il problema è che lei è soprattutto una contadina, quindi quando può andare a scavare all'orto, va. Questa è la sua caratteristica. Stai svilendo Antonella, in realtà è una grande ricercatrice, Antonella è un'ottima archivista, quindi sì. In realtà sta facendo un lavoro egregio sull'archivio appunto di Cesare, che come avete visto peraltro appunto è un archivio complesso, nel senso che è multiforme, cioè oltre alle registrazioni e alle carte di ricerca hai anche un sacco di materiale proprio l'immensa biblioteca, sono 60.000 volumi, hai anche molti oggetti, molto materiale grafico. Succede? Non si riesce a collegarsi con Antonella, che però immagino insomma ci avrebbe raccontato qualcosa in più del progetto che stanno facendo di digitalizzazione e dell'archivio appunto di Cesare. La cosa importante, tanto la sentiremo poi adesso rivedendo il video, è proprio il fatto che si è finalmente riconosciuto il valore pubblico anche l'importanza del riconoscimento da parte della soprintendenza del notevole interesse storico per questo archivio, per questa casa archivio, perché veramente credo che sia assolutamente impensabile di spostare l'archivio dal luogo in cui si trova. Avete visto anche voi la meraviglia dello spazio, tra l'altro, in cui è conservato, in cui si è prodotto ed è conservato questo archivio di Cesare. Il fatto che sia stato appunto riconosciuto come un archivio di notevole interesse storico è davvero, credo, da una parte un riconoscimento per te, per il lavoro che hai fatto per una vita, e il fatto di essere appunto produttore di un materiale che è un materiale pubblico, cioè è un bene comune come tutti gli archivi, insomma, pur essendo un archivio privato, perché è prodotto da un soggetto privato, in realtà ha un valore per tutti noi. Io direi su questo possiamo salutarci, Cesare, rivediamo ancora il video, così anche tu hai modo di rivederlo per la seconda volta, e poi vi ricordiamo che sì? No, guarda, non te lo so dire. Io vado avanti, ma il problema è che avrei bisogno di più manodopera, insomma. Però essendo a Orta, che è un paese fondamentalmente fascio-leghista, diventa un po' dura. Però, d'altra parte, non posso... Voglio dire, è molto importante avere uno spazio, insomma. Infatti è tra l'altro il problema di un altro spazio, che è lo spazio dell'associazione ambientalista Ernesto Lagazzoni, che tra l'altro è proprio impegnato in una battaglia per convincere che le case di proprietà sono sì di proprietà, ma sono anche non debbono essere in intralcio alla vita pubblica, insomma, e debbono essere aperte per quel che è possibile a tutti. Bene, grazie Cesare. Sì? Credo che sarebbe preferibile, c'è da dire che appunto comunque la regia di Antonella De Palma... Io adesso abbiamo preso contatti con l'Università di Torino, però è ancora un po' presto per capire se arriverà qualcuno. Se qualcuno vuole fare una tesi di laurea, se vuole fare... No, però credo che la domanda fosse se ci sono dei volontari o delle volontarie, possono venire anche se non sono qualificati come archivisti... E nel caso immagino che sia possibile, cioè penso adesso rispondo a nome di Antonella, però magari poi su questo conviene rimanere in contatto diretto con Cesare. Credo che ci siano comunque anche delle operazioni, delle attività che sono possibili anche senza una qualifica come archivista, per cui penso che la risposta sia positiva, ovviamente sotto il coordinamento di Antonella De Palma, che può dare indicazioni su come, perché comunque il lavoro di intervento di conservazione dell'archivio deve invece essere assolutamente secondo standard nazionali importanti, appunto perché vengono anche verificati dalla soprintendenza, cioè il riconoscimento di essere un archivio di notevole interesse storico comporta anche il fatto di essere conservato secondo degli standard nazionali di conservazione archivistica. Quindi la risposta è: credo che sia possibile anche per dei volontari o delle volontarie non qualificati, ovviamente lavorando secondo indicazioni invece di persone qualificate, che sono quelle che coordinano il progetto. L'ultima cosa che volevo dire è che è un peccato che non ci sia Antonella, perché Antonella ha studiato per parecchi anni la questione dell'Ilva, e infatti c'è un articolo sul primo maggio suo sull'Ilva. Perché Taranto, che non è una città particolarmente di sinistra, tuttavia ha alcune caratteristiche molto importanti. Per esempio il fatto che c'è un gruppo pacifista che è quello che poi ospiterà il manifesto che Sergio e i tedeschi hanno fatto sulla guerra in Ucraina. Il loro sito, credo si chiami Peace Link. Vi consiglierei di andarlo a leggere,